Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto Gianluca Codognato con noi al telefono. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Devo dire che la storia che ci racconti oggi è una di quelle che lascia un po' impressionati, no? Perché perdere 33.000 euro per un truffatore è un gran guadagno, ma per chi li perde è veramente un colpo gobbo, come si dice. Anche perché l'inganno è riuscito molto bene. Raccontiamo questa vicenda. Sì, è una vicenda assolutamente emblematica, Francesco, perché ci ha lasciato anche a noi di stucco. E in parole povere, questa persona, questo impiegato mestrino, ha trovato sul sito subito.it un affare, quello che risulta essere un affare, ovvero un camper che gli interessava per il costo di 33.000 euro. In parole povere ha contattato il sedicente venditore, il quale appunto ha detto che ha notato che il camper era parcheggiato ad Arezzo, che comunque era interessato evidentemente alla transazione, e niente, quindi hanno cominciato a sentirsi un po' di telefonate per mettersi d'accordo, fino a che sempre il sedicente venditore ha annunciato che sarebbe venuto dalle parti di Mestre per direttamente a portare il camper dal compratore, che appunto è mestrino, e però ha chiesto un favore, ha detto: però avrei bisogno di capire se tu hai le disponibilità economiche. Ti chiedo per cui di mandarmi la fotocopia di un assegno circolare con il valore del camper, che è di 33.000 euro. E questa persona, questo nostro socio, appunto si è andato nella sua banca, si è fatto fare l'assegno, quindi gli è stata tolta la sua disponibilità di 33.000 euro e ha mandato una fotocopia appunto di questo assegno. Fatto sta che continuano i contatti, la persona che dovrebbe vendere il camper rinvia sempre l'appuntamento e a un certo punto sparisce. Quindi diciamo che il compratore cerca appunto di contattare questa persona inutilmente, dopo qualche giorno è preoccupato, riporta indietro l'assegno, in banca dicono che è tutto a posto, che non è stato preso nessun soldo, che non risulta nessun addebito. Però fatto sta che questa persona un giorno cerca di prelevare e scopre che non ha nulla. Il giorno dopo viene a scoprire appunto la triste verità, ovvero la banca lo avverte che effettivamente qualche giorno prima, esattamente a fine settembre, era stato prelevata una somma di 33.000 euro e quei soldi corrispondevano alla somma del suo assegno, contenuta nel suo assegno circolare. E quindi in parole povere questa persona si ritrova senza 33.000 euro, è truffata da ignoti, ha presentato ovviamente denuncia ai carabinieri e noi a questo punto come Adico siamo intervenuti e siamo andati a chiedere con una diffida alla banca la restituzione dell'intero importo, ovviamente, perché noi riteniamo che la banca evidentemente abbia commesso qualche leggerezza. Trattandosi di un assegno circolare è dura capire come possa essere stato cambiato una fotocopia di un assegno. Ecco. Qua veramente è una vicenda che lascia un po' di stucco, anche perché se ho ben capito il titolare del conto, quindi aveva restituito l'assegno circolare che non serviva più. Esattamente, lui quando ha capito che non riusciva più a contattare la persona che doveva vendergli il camper, ha ridepositato l'assegno e tra l'altro allo sportello gli hanno comunicato che appunto non c'era stato alcun addebito, quindi non risultava essere uscito nessun soldo, per cui alla fin fine sembrava tutto a posto e in realtà alla fin fine non è stato così. Ecco, impressionante, quindi non fidiamoci, evidentemente i truffatori si fanno sempre più furbi e non fidiamoci di queste cose, cerchiamo di farci consigliare anche in queste pratiche di compravendita di mezzi usati, nuovi, anche attraverso i siti internet, c'è sempre da stare molto attenti. Sì, bisogna porre molta attenzione, veramente. È chiaro, anche quando si compra sui siti è chiaro che magari si possono ottenere dei vantaggi, però insomma bisogna stare molto attenti perché non si conosce la controparte. è una vicenda molto interessante. Se qualcuno ha dubbi può chiedere lumi anche all'Adico. Ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it. Noi con l'Adico ci ritroviamo tra qualche giorno. Grazie Gianluca. Ciao Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.